America 24 di Mario Platero. Miss USA 2010 is Michigan! Rima Fakiri! Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York. Mario Platero, Miss America di quest'anno per la prima volta e una ragazza musulmana, 24 anni, nata in Libano, Rima Fakiri del Michigan, come ha detto l'annunciatrice poco fa. È una notizia secondo me interessante perché conferma il profondo contraddittorio in cui si trovano gli Stati Uniti, che da una parte riescono senza problemi ad eleggere una musulmana Miss America, dall'altra restano pieni di sospetti di ogni genere, soprattutto dopo che un pakistano americano ha cercato di fare un attentato a Times Square. Le contraddizioni naturalmente sono plurime, sentiamone un'altra. Se da una parte c'è l'apertura di eleggere una musulmana Miss America, una ragazza molto bella, brillante, la potrete vedere su internet, laureata in economia, resta la chiusura. Un gruppo islamico ha chiesto di costruire una moschea vicino a Ground Zero, non soltanto per averla in quel quartiere, ma anche per essere simbolicamente parte, vicina a quello che poi nella realizzazione architettonica sarà anche il grande monumento ai caduti dell'attacco dell'11 settembre. Ebbene, la risposta dei newyorkesi è stata durissima: non la vogliamo, abitanti del vicinato, parenti delle vittime sono contrari al progetto, che si propone appunto di costruire questa moschea a due isolati da Ground Zero, ma anche di fare un centro culturale islamico, un centro sportivo, un cinema aperto a tutti. E l'idea, dicono, è quella di facilitare l'integrazione e dimostrare che il mondo islamico musulmano è davvero parte integrante della comunità americana e non un elemento separato. Ecco, questo è uno dei temi centrali: Islam separato o Islam parte del mondo americano. Sul piano politico, un'altra sorpresa. It does not change the steps that we are taking to hold Iran responsible. L'ultima trovata di Teheran, di Ahmadinejad, è quella di accettare il compromesso proposto dalla Turchia e di dare, perché sia arricchito il suo materiale nucleare, il suo uranio, appunto, alla Turchia, che è un altro paese islamico. In questo modo, dal punto di vista dell'Iran, si raggiunge lo stesso il compromesso che avevano proposto già molti mesi fa, e quindi l'idea di accettare, ritornare su quel compromesso, perché l'uranio verrebbe dato a un paese islamico. C'è oltretutto la mediazione del Brasile, quindi l'Iran fa vedere che è in grado di portare una soluzione senza passare per le grandi potenze, Stati Uniti, Cina, Russia, quindi un messaggio molto populista, un messaggio che imbarazza Washington nel momento in cui si sta arrivando addirittura a finale per passare delle sanzioni durissime contro l'Iran. Chiaramente una situazione di nuovo imbarazzante e un'altra dimensione, quella politica del mondo islamico. Da una parte la Turchia, che più o meno si è messa d'accordo con l'Iran, e l'Iran che resta nemico; dall'altra i grandi alleati nel mondo islamico in Egitto, in Arabia Saudita, e vedremo in Indonesia, dove il presidente Barack Obama ha confermato la Casa Bianca si recherà. Parliamo con Maurizio Molinari, corrispondente della Stampa dagli Stati Uniti, ormai qui da moltissimi anni, ma anche grande esperto di Medio Oriente, ha studiato in Israele, ha intervistato Gheddafi, quindi è uno dei testimoni migliori per cercare di capire questa contraddizione tra Islam e America. Buongiorno innanzitutto. Buongiorno a te, Mario. È possibile per un musulmano integrarsi completamente nel mondo americano? Qualcuno dice di no. Ma il primo a dire di no, in effetti, fu Steven Emerson col suo documentario Jihad in America del 94. Chiaramente l'episodio recente di Wall Street pone un interrogativo drammatico, e ha a che vedere con l'identità musulmana che impone i suoi valori e con difficoltà si assimila. Però la storia della Miss di Chicago testimonia esattamente il contrario. Secondo me la chiave di lettura è nel tipo di immigrazione, ovvero la ragazza del Michigan viene dall'immigrazione libanese, che tradizionalmente è la classe medio-alta. I libanesi che sono arrivati in America appartenevano al ceto alto, a Damasco, a Beirut, mentre invece i pakistani appartengono a un ceto diverso nel loro paese, molto legati ai militari. Il papà era delle forze armate pakistane. Insomma, un'estrazione differente, più esposta alla jihad nel caso dei gruppi pakistani, meno nella borghesia siriano-libanese. Quindi per questo spieghiamo anche il rifiuto dei parenti delle vittime all'idea di costruire una moschea vicino a Ground Zero. Ma questo è qualcosa che non è nello spirito della città di New York. A me ha impressionato molto quando subito dopo l'11 settembre il sindaco di allora, Giuliani, disse che non si alzi una mano nei confronti dei musulmani, e devo dire che subito dopo il fallito attentato di Times Square, Bloomberg con altrettanta efficacia ha ripetuto la stessa frase: questa è una città tollerante e nessuno si azzardi a sollevare non solamente attacchi ma anche sospetti nei confronti dei cittadini musulmani. È vero però che c'è una parte del paese che ha digerito male questa serie di attentati riusciti o falliti e che quindi esprime un'intolleranza dal profondo del proprio ventre. Credo che però, Mario, sia un'intolleranza non americana. Ecco, allora arriviamo alla parte politica. Un pronostico, Maurizio. Qui, insomma, l'Iran è riuscito a tirare fuori il coniglio dal cappello. Secondo te Barack Obama riuscirà a far passare lo stesso le sanzioni a questo punto o no? L'Iran ha confermato la sua tradizione di diplomazia molto fine, davvero. Un gran colpo hanno messo a segno. Brasile e Turchia sono due dei migliori alleati di Washington, quindi hanno messo in difficoltà l'amministrazione. Ora, il portavoce Gibbs ieri sera sul tardi ha fatto un briefing e ha detto ai giornalisti accreditati alla Casa Bianca: comunque andiamo avanti, acceleriamo sulle sanzioni, ma è evidente, come giustamente tu dici, che l'amministrazione è in seria difficoltà. Credo che ci sarà nei prossimi giorni, forse nelle prossime ore, una consultazione con i russi per decidere come procedere. Per l'amministrazione certo fare un passo indietro è difficile, ma anche andare avanti adesso come minimo dovrà aspettare il verdetto della IAEA, l'Agenzia Atomica dell'ONU, sull'accordo siglato a Teheran. Solamente dopo il pronunciamento della IAEA si potrà tornare a parlare di pacchetto sanzioni all'ONU. Bene, Maurizio, grazie. Allora, a conferma di questo contraddittorio infinito e che continua, la prossima volta in cui ci incontreremo credo sarà quando andremo in Indonesia al seguito del presidente Obama, dunque una visita in un paese musulmano dove peraltro questo presidente è cresciuto. Salutiamo Maurizio Molinari, a presto, grazie. Grazie a voi. Bene, un'altra notizia importante: la legge per la riforma finanziaria è addirittura d'arrivo, si dice che entro la fine di questa settimana dovrebbe essere approvata, e una pietra angolare ovviamente per dare stabilità, fiducia ai mercati da una parte, le banche non sono contente, la battaglia è ancora aperta. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Ed eccoci alla canzone del giorno. Dopo 3 anni di lungo lavoro fra Martin Scorsese e la vedova di George Harrison, Olivia, è ormai quasi pronto il documentario sul grande chitarrista dei Beatles che, ricordiamolo, morì purtroppo prematuramente nel 2001. Il documentario si chiama Living in the Material World, George Harrison, e dunque dedichiamo a lui una sua vecchia canzone, Something, qualcosa. You're asking me, will my love New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going. America 24.